Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È Giulio Caperdoni a irrompere nel palinsesto di Rock FM come ogni giorno alle ore 19 per arrivare fino alle ore 20. È Eclettica a irrompere nel palinsesto di Rock FM. Giulio è @rockfm.com è l'indirizzo di mail, myspace.com/eclettica invece è il sito su cui trovate tutti i dettagli anche per quanto riguarda il podcasting. Oggi è caduto il muro di Berlino. Tutto è cominciato quel 9 novembre 1989, con la caduta del muro. E non possiamo immaginare che cos'altro crollerà con lui. Così parlò quel giorno Violeta Dasinski. Questo era l'incipit di Antigua Vita Mia, di Marcela Serrano. Gentlemen, they'll have to check your firearms if you want to join in on the festivities. Who's gonna make us tenderfoot? You? I am. Marshal Strickland, I didn't know you was back in town. If you can't read the sign, Tannen, I presume you can read this. pretty tough armor when you're pointing a scattergun at a man's back. Just like you, Tannen, I take every advantage I can get. Now, you gonna check your iron? I was just joking with you, deputy. Of course I wanna check my iron. We all were, weren't we, boys? In Ecletica quest'oggi hanno già trovato spazio il progetto One Man Band My Robot Friend con il pezzo Robot High School e poi The Ravionettes con Dead Sound estratto dal loro ultimo album, e trova invece spazio nei prossimi minuti un estratto da quello che è il nuovissimo album dei The Warlocks, la formazione Los Angelina che esce con Heavy Davis Call Lover, dal quale vado ad estrarre So Paranoid. Switches are insane. My hands are messy. Il secolo era iniziato da 20 giorni, quando un'automobile bianca senza targa, con tre individui a bordo, travolse il corpo di una donna che attraversava una buia strada lastricata alle 8 di sera. Stando alle parole dell'unica testimone, la vettura non si era fermata, per cui la donna, vedendo una persona accasciata in mezzo alla strada in seguito all'urto, aveva chiamato un'ambulanza, senza avvicinarsi per controllare se la vittima fosse ancora viva. Un'intuizione l'aveva trattenuta. Questo era l'incipite di Quel che c'è nel mio cuore, di Marcela Serrano. To see you. I see you got yourself some respectable clothes, lad. And a fine hat. Yeah, well, a couple people didn't like the way the other one looked on me. Sure, and that one suits you, Mr. Eastwood. It's very Bukulman. Oh, thanks. Le classifiche possono essere tante, di tutti i tipi, quelle legate ad un periodo, come per esempio le classifiche di un anno, come quello che si sta per chiudere, o quelle legate ad un aspetto particolare, ad una caratteristica. C'è poi chi attorno alle classifiche magari riesce anche a costruirci un romanzo, vero, Nick Hobby? Possiamo prendere una manciata di queste classifiche, più o meno fra di loro simili, e riassumerle come i 10 album più sottovalutati della storia. Ecco, c'è una costante, un disco che compare sempre in questo tipo di classifiche, del disco che stiamo per riascoltarci, perché è stato ripubblicato. Però prima di svelare di quale album sto parlando, vi voglio ricordare che vi siete appena ascoltati The State of Samuel con Square Roots, e prima ancora una traccia diversa rispetto a quelle che già ci siamo ascoltati da un album che stiamo snocciolando settimana dopo settimana, ovvero sia In Rainbows per quanto riguarda i Radiohead. La traccia di quest'oggi era stata Body Snatchers. Giulio Caperdoni sta per arrivare alla chiusura della prima parte, ma vi ricordo che poi ce ne sarà una seconda, ed ora vi svela qual è l'album in questione. È l'album intitolato Breaking God's Heart degli Hefner. Un album che è stato originariamente pubblicato nel 1999 e che ora viene ripubblicato sotto forma di doppio CD, perché oltre alle 10 canzoni originali ci sono ovviamente un sacco di extra, da versioni demo a B-side, a versioni dal vivo e così via. Hefner, che ci riascoltiamo con The Librarian. He hoped that she would see. He planned to take her home to bed someday. He'd smooth a goosebump skin while she lay. But the unspoken thing they both knew, whilst he'd dream of her often, she would forget in jest. Beginning to irritate, so she made him go away. The smallest, cruelest insult, she ignored his subtle ways. The deathly silence let him know his efforts were in vain. Did the words ever exist? And if so, could he find them? He planned to take her home to bed someday. He'd smooth her goosebump skin